un tuffo in fondo al cuore. Oh, oh, oh, oh. Ah, boh, l'amore mio sei tu. È stato all'improvviso, oh, oh, oh, oh, e non ragiono più, oh, hai gli occhi più blu del blu, sorridi soltanto a me, e niente io so di te, è meglio così, oh, oh, oh, l'amore. È già finito, oh, oh, oh, oh. Bumpa, l'amore viene e va. Un po' di dispiacere, oh, oh, oh, oh. E dopo passerà. Due occhi più blu del blu, domani ritro. Sempre così, l'amore è tutto qui, due occhi più blu del blu, domani ritroverò più belli dei tuoi, lo so, è sempre così, l'amore. I'm